Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Sulle consuete ultime note di musique concrète de Lazy Per Sound di Pierre Henry, sono lieto di ripresentarvi qui a Radio Wombat. E come saprete, se seguite i sabati sera qui a Radio Wombat, siamo nuovamente qua a Basement Records. E questa nuova puntata di stasera, di questo sabato sera, pensate un po', un ospite internazionale qua che ci è venuto a trovare, l'ennesimo grande ospite che manda avanti questa trasmissione, direttamente da Squat Masterchef. Di solito sono altri piatti che fa girare, infatti ormai catapultato da tutte le parti del mondo per fare i suoi piatti. Stasera farà girare altri piatti con i suoi dischi. In mezzo a voi vi presento Nero. Buonasera a tutti. È un po' emozionato, perché è timido il ragazzo, la prima volta qua in radio, però tanto l'ho rassicurato, gli ho detto spareremo un sacco di stronzate, quindi rassicuratelo anche voi da casa, non lo potete fare, però mentalmente fatelo. E ci ha portato veramente, io vi farei vedere quanti dischi ha portato qua a Basement. E tra l'altro una creme della creme, specialmente di musica italiana, ho potuto vedere, ho visto dei dischi di dei cantanti, cioè veramente old school, ma anche proprio belli di nicchia, perché dici un po' da dove arrivano questi tuoi dischi che hai attentamente selezionato stasera per portarceli. Ma io senti, l'altra settimana scorsa mi sono messo in cantina di mia e ho trovato una scatola rosa, ho aperto, era piena di vinili e ho detto ma portiamoli alla radio. Oggi sono sbucato qui dentro con un'arista in mano e la cassetta dei dischi, ho detto si magna e si mette un po' di musica. Cioè, una delle puntate più top della storia di Basement Records, cioè invece di saltare il pasto come tutti i sabati sera, stasera mangio anche, cioè una delle puntate, già come partenza si parte benissimo, almeno per me, poi per voi staremo a vedere, ma per me parte benissimo. È partito subito tutto all'inizio, giradischi, mixer, mi ha portato la scena, cioè io veramente non posso chiedere di più, cioè a questo punto meglio di così proprio non si poteva fare. E come selezione, guarda, io vedo qua a girare sul piatto, avevamo già deciso da prima per introdurti giustamente, abbiamo messo sul piatto il primo disco che è di Narciso Parigi. Certo. E alla maggior parte dei nostri ascoltatori, specialmente penso quelli fuori dalla zona di Firenze, di Narciso Parigi, cazzo è... Narciso Parigi per noi di Firenze è, e soprattutto per chi ha la disgrazia e la malattia genetica di fare per i colori viola, Narciso Parigi è il cantante dell'inno della Fiorentina. Certo, quello lì mi manca, non so dove l'hanno nascosto, però alla fine sì, un po' toccare un po' Firenze, toccare vari artisti. No, che non hai portato l'inno, meno male, perché visto il momento era meglio di no. Però l'idea è sapeva toccare sapeva proprio di presa di uno, se no. Ma per me stesso direttamente. Sì, che partire un po' da Firenze, toccare altri artisti, dischi rascheranno un pochino, perché da piccino ci pattinavo. Cioè, ci pattinavo nell'ingresso. Qui sono proprio veramente di recupero, però appunto c'è delle creme e questo effetto secondo me Graff renderà ancora di più a Basement, e poi sentiamoceli prima come suonano, no? E ora di Narciso Parigi non si è messo l'inno della Fiorentina, non si poteva essere così autoreferenziale, anche se ha aspettato un attimo a sentire il secondo disco. Però abbiamo scelto tra la grande scelta che hai portato, Le ragazze di Monticelli, che mi raccontavi di queste ragazze di Monticelli, non è nient'altro che quelle, le famose Le ragazze di San Frediano di Marà, che poi ha rifatto Marasco in versione, diciamo, per i tempi VM18, e invece questa è la versione quella... straight. La versione originale, la versione un po' più mediata, diciamo. Parecchio però... immediata. Le ragazze di Via Panicale con le ciocciere e le spazzano le scale, uno dice. Non lo dice? Non lo dice. Ascoltate cosa dice. Sentiamoci subito Odoardo Spadaro con Le ragazze di Monticelli. Non qui era Narciso Parigi. Ah, è vero, sì, Narciso ormai sono già proiettato sulla prossima. È Narciso Parigi con Le ragazze di Monticelli, qui a Basement Records, Radio Wombat. Le di Ponte Rosso non ti danno né cicce né osso, le ragazze di Viale dei Corni con i giovani scavezzatori, mai le scambian parole d'amore. Hanno timore, han paura perfino dei polli, le ragazze di Viale dei Corni, mentre quelle di Topolino, se le guardi ti danno un golino, le ragazze di Viale dei Mille, le ti sgusciano come l'anguille, son leggere come seta, sembrando un altro pianeta, le ragazze di Viale sono più dure. le ragazze di Pignone, non vuol dire che le sono musone, però senza tanto affanno e suoi affari se gli fanno, non si possono chiamare chiacchierone le ragazze di Pignone, mentre quelle delle cascine come i grilli son canterine, le ragazze di Ponte Ema e ce l'hanno si sa per sistema, se l'amore voi gli date e lo prendono sempre a rate, sempre lasciano a mezzo il problema. Ciao a tutti anche a me. Le ragazze di tutta Firenze, per le quali non ho preferenze, hanno insomma quel non so che le piacciono a tutti anche a me. Insomma, Narcisone lo pensavo più soft, invece a risentirla qualcheduna la dice anche lui. Non ti voglio dire ai livelli di Marasco, però insomma pensavo fosse molto più soft, come allora, dicevamo fuori onda. Aveva marcato la strada. Insomma, certe frasi, infatti si dice non è che dopo l'hanno mandata il confino il buon Narciso Parigi, perché insomma per essere Narciso Parigi come testo mi sembrava abbastanza spinto per i tempi, non c'è scritto la data, però insomma secondo me qui siamo a 70 dici? Sì. Ah, pensavo prima, guarda, che tra l'altro poi leggo sulla copertina che queste ragazze di Monticelli in realtà è tratto, cioè poi farà parte di questo film chiamato Vita Coniugale, che mi viene da dire sicuramente sarà un filmone, ma magari magari è bello davvero e mi sputtano da solo, però insomma... Già Vita Coniugale prometteva bene come film, niente male. Però già qui che sta girando sull'altro piatto, proseguendo sulla linea di Firenze, ora si sta dicendo, ora siamo al massimo dell'autoreferenzialità, però non si può, visto che il buon Nero cioè addirittura portato in questo caso, quello di prima era un 45 giri, un singolo, ma in questo caso è proprio una raccolta a 33 giri del grande cantautore di Firenze degli anni 40, degli anni 50, ovvero Odoardo Spadaro. Se siete di Firenze lo conoscete, ma mi immagino che non abbia varcato i confini forse neanche della provincia, forse il buon Odoardo. Già a Pistoia, non lo so. Prato ci si arriva? Prato, ma a quei tempi, l'era lunga. Per arrivare sulla Pratesa, a quei tempi erano tutti campi. Era lunga, che mi sa che non c'è mai arrivato. Quindi, non lo so, e quindi la prima non si può che mettere Firenze, è la canzone proprio simbolo di Odoardo Spadaro. Oggi siamo un po' campanilisti, se anche con la felpa viola. Quella tocca, comunque non vi preoccupate che sì, poi spazieremo. In questo caso sì, è per la Fiorentina, ma è anche per la Fiorentina, ma in lutto. Lo so, fisso. Visto gli ultimi vicendamenti della settimana, Però comunque non vi preoccupate, poi dopo cambieremo generi musicali. No, perché? No, falli preoccupare. Faccio preoccupare? Facciamoli preoccupare, che qui a Basement, specialmente se ci sono io e non c'è nessuno poi che mi punta il fucile, si mette la roba più strana, vai tranquillo e sereno. Dai, partiamo, volevi dire qualcosa su Spadaro? Sì, o su Firenze, o lo facciamo partire Io lo farei partire e poi dopo a canzone fatta... Emozioniamoci insieme, che io già sono emozionato, per me è la prima volta che guardo una cosa tonda e ci parlo dentro. Infatti ti ho messo Narciso Parigi e Edoardo Spadaro all'inizio, giusto per farti entrare nel mood che ti senti sicuro. Dammi come una referenza, sono a casa. Aspetta, dopo ti sciolgo lo Xanax, la birra o qualche cosa di un pochino più a e vedrai che tutto girerà alla grande. E ora, Edoardo Spadaro con Firenze qui a Basement Records, Radio Wombat. Tra delle colli in un punto che c'ha in piedi. Edoardo c'ha qualche anno, vive in un assenti, chi c'ha la sua francese, chi c'ha la sua australiana, poi c'è chi c'ha l'inglese, oppure l'americana. Biondona, una fartruna, da reticenze e di Firenze. Firenze, città delle colli, in un punto che c'ha in fiamma, chiama Cine. E chi va con la vettura, chi va con il cavallo, che il cielo sia sotto un tramonto giallo. Io vo, come tu vedi, vo alle Ascine e ci vo sempre a piedi. L'aspetto e viene piena di movenze, come fan le donnine di Firenze. Firenze, città di Vial de Holly, là in mezzo ai gran piazzale ci passano tanti furbi e tanti polli. E chi va per il panorama, chi va a farà l'amore, ma c'è chi di lì passa e gli si schianta il cuore, e passa tra tante voci e di un guarda e va in monta alle croci. Cappelli in mano, quattro riverenze, sotto un tramonto rosso di Firenze. E questa era la leggendaria Firenze di Edoardo Spadaro. Avete sentito anche che all'inizio saltava perché c'è, diciamo, una spuntatura a bordo disco che gli dà quell'effetto che è anche bello così, però insomma un classicone, penso la canzone che proprio identifica Edoardo Spadaro, no? Sì, totalmente, identifica e è un po', diciamo, che da noi... È partito un telefono da noi fiorentini, alla fine è quella che la si canta. Infatti io e Nero eravamo qui tipo karaoke a cantarla come due dementi, molto meglio per voi se sono rimasti chiusi i microfoni, fuori sta per diluviare, cioè già, sì. Sono già raggrumate tutte le nubi su Firenze. Ora si pensava di... Ora volevo mettere una canzone che questa parla... Sempre di buon Edoardo, Sempre dello stesso artista, che parla della gente che si ritrovavano ai tempi a ballare nelle aie dei grandi signori, tutti i contadini, tutti i lavoratori si trovavano a lavorare in queste aie e ballavano, e qui racconta l'incontro tra tutti questi lavoratori e una balda, come si dice, una la figliola del riccone padrone che va del, giù del fattore, la figlia del fattore, sì, che invece di mandarli non via del fattone del fattore. Fattore a quei tempi era poi, ma insomma secondo me la raccattavano anche a tempi, vedi, a me, ma si dice prima o poi ha visto tutte, dice, ho visto la Madonna, sì, ha voglia, sega le cornuta nei campi di grano, lo sante ce n'era, sì, la vedeva anch'io la Madonna, vai. Vabbè, a parte questa parentesi, e praticamente lei andava, scende giù e si mette a ballare. Sono, ascoltatela. E questo è il valzer della povera gente, sempre di Odoardo Spadaro. Chiaramente a Basement Records. In città è il valzer della povera gente, di un semplice valzer che è fatto di niente. Con due chitarre ed un mandolino si ballan sino al mattino. Non è liscio il nostro impiantito, si rischia a ballar di restar ristecchito. Egli è un valzer a passi tra i sassi, e qui che si cerca a spassarsi. Eccoti che da una strada si vide avanzarsi una figurina. Fermi ragazzi, si disse allora, è giunta la padroncina. Così a vederci la bella creatura ci disse su continuate. Io vengo qui che ci sarà chi un valzer ballar mi farà. Gli è il valzer della povera gente, gli è un semplice valzer che è fatto di niente. Con due chitarre ed un mandolino si ballan sino al mattino. Attento che lì c'è una buca, gli è lì che s'attacca ogni giorno l'asciuga. E gli è un valzer che è fatto di niente, gli è il valzer della povera gente. E questo era il valzer della povera gente di Odoardo Spadaro, bellissimo, lacrimuccia, proprio, lacrimuccia direi. E visto che in un momento così, sarà, se no è bene approfittarne, perché se no sai che scatterà la punizione da parte dell'altissimo direttivo di Radio Wombat se non ricordiamo i nostri indirizzi per mettersi in contatto con noi, che come sempre, e spero come ripeto ogni volta, sappiate, il sito ormai è wombat.noblogs.org. La nostra frequenza in onde mediocri, se siete nella zona di Firenze, in AM è 1359 per la zona di Firenze sul vostro autoradio, rigorosamente in onde medie. E poi la nostra mail per scriverci le mail di infamate, di complimenti, di segnalazioni, di qualunque cosa vi venga in mente, è sempre postawombat@insiberia.net. lo sai, ti vedo già col sorrisino, ma lo sai che quell'insiberia.net è un avvertimento. E poi ci sono i nostri canali social, perché si sembra così dei vecchi vetusti, quasi a un passo da Montedomini, ma in realtà siamo anche social come i giovani. E quindi abbiamo il nostro canale Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi, e il nostro canale Facebook, che i giovani dicono che ormai è il social dei vecchi, ma è facebook.com/radiowombatfirenze. Ma vedo, incredibile amici, un'altra super ospite, finalmente, dopo averla nominata così tante volte nelle trasmissioni di Basement Records, finalmente Nenia è comparsa come in un sabba satanico, praticamente. Eccola, eccola, comparsa. Saluto a tutti. Ti prego. Buonasera, buonasera a tutti. Dalla Nenia. Vi farò consumare le puntine del... Ormai come ti si deve chiamare, quindi? Ormai sono appena po'. Appena po'. Mi hanno ribattezzato, anche ho se... sentito, sì. Anche se all'anagrafe sono sempre segnato come Dalai Dama. Però i soprannomi è giusto che te li diano gli altri e non te lo scelga per te stesso. E ormai sono dovuto andare all'anagrafe a cambiare il mio nome. Non so, adesso è ufficiale, non sono più Dalai Dama, ma... Pennafoco. E quindi approfitto anche per ufficializzare questa cosa. Se non lo sapevate, sapevatelo. Sapevatelo. Sapevatelo, ora sappiatelo anche, soprattutto. Ma guardi, cara Nenia, lei arriva proprio giusta perché qui con il mitico casco a fagiolo. A fagiolo, perché con il nostro ospite internazionale, adesso dopo essere stati qui dalle parti di Firenze con Narciso Parigi e Edoardo Spadaro, adesso ce ne andiamo su al nord perché incontriamo il buon vecchio Enzo Iannacci. Stasera sarà una puntata molto italiana per noi. Dici un po' perché è molto italiano. Perché tutte... perché babbo e la mamma, sa, a quei tempi i dischi erano lì. Ci saranno anche qualche perla straniera. Però intanto partiamo sullo stile italiano. Mi stanno mettendo il microfono in bocca, veramente. Mi stanno indirizzando una marionetta dove devo parlare. Forse mi sentite meglio. Andiamo con Iannacci, vi presento un pezzo quasi inedito. Mi dicevi che appunto questo, che io non conosco questo pezzo di Iannacci, però questo pezzo di Iannacci è non uno dei suoi soliti scazzoni così, ma è un po' più triste, magari un po' più lento. C'è un punto triste che ora lo ascolterete mentre girerà il fantastico piatto. Anche perché si è riso troppo fino ad ora, quindi era giusto mettere un punto un po' triste, un punto di discesa. Questo si chiama, questo pezzo di Iannacci si chiama Giovanni Telegrafista. Sì, che tutto il titolo già è un programma. E sentiamo cosa telegrafa questo Giovanni. Mi raccomando. Chiaramente, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Giovanni telegrafista e nulla più, stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo su un tasto solo. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Ellittico da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità. Conobbe Alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Storia viva e urgente, inutilità alfabeto, mozze in mano, Giovanni telegrafista, cercare Alba, ogni luogo provvisto telegrafo. Quando invecchia com'est, rosa, urgenza, Giovanni telegrafista e nulla più. Urgente piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Per sue mani passò a mondo, mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato. Passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo, ottavo giduca di Windsor. Passarono cavallette Cina, passò sensazione prima bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizie e matrimonio. Alba con altro. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba è urgente. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Allora, speriamo che almeno voi l'abbiate sentita a un volume normale, perché noi abbiamo avuto un, si sa, un po', non si sentiva tanto bene, però poi nel sottofondo, alzando la cassa, abbiamo riconosciuto io ho riconosciuto la canzone. Abbiamo qui Nenia che sta lacrimando con la collezione di dischi del Nero. No, ma Non sei felice, guarda che emozioni che stai elargendo. Cioè, io boh, non so se ti rendi conto. No, ti ho detto. Sapete anche che sono una che non si emoziona molto facilmente. Esatto, cioè, voglio dire, per far emozionare Nenia qui, insomma, non è che ci abbiamo provato tutti, infamate, bombe carta. Ma macchine sui mattoni, cioè non c'era mai stato verso, invece visto, guarda come l'ha fatta emozionare. E ora, e tutto è nato, attenzione, spot, e tutto è nato perché io sono andato in cantina dei miei genitori a cercare un cavallo di pezza. Perché un cavallo di pezza? Spot, invado questa trasmissione a fare uno spot, perché bravo, il giorno 27 aprile l'Emerson si presenterà il cabaret dopo l'ora di cena. Che cercando il cavallo di pezza, che poi ho trovato i dischi. Sì, che vi aspettiamo il giorno 27 per il cabaret. È finito lo spot. Pubblicità progresso, eh? Na, na, na, na. Insomma, io spero vi sia piaciuto questo Enzo Iannacci che parla di questo telegrafista. Cioè il segnale c'era, non so se i nostri ascoltatori l'hanno sentito bene oppure l'hanno sentito un po' soffuso come l'abbiamo sentito noi, però insomma il principio era quello. Se poi gli è piaciuto nel sentore, allora l'andranno a ricercare, però il merito della riscoperta non si tocca. Se poi dopo lo volete risentire, ve lo rimettiamo, quello non è un problema. Certo, non ha voglia, cioè, si rimette a ruota finché non si puliscono i solchi e finalmente non si sentirà per bene, giustamente. Nuova tecnica per non sciupare i vinili, diciamolo a tutti i nostri appassionati ascoltatori appassionati di vinile, invece di pulirli con il pannetto, ascoltateli a diritto, che le puntine così scavano nei solchi, tolgono fuori la polvere, e per l'effetto centrifugo del giradischi poi la polvere cadrà tutta sui vostri piedi, però almeno il vinile è salvo. Ora vi mettiamo un pezzo che realmente non sappiamo di che cosa va, perché in mezzo a tutti questi dischi, che io ancora a quei tempi magari mi immaginavano, e non sappiamo cos'è, però il titolo ci garba. Non so, che non sappiamo cos'è, di sicuro, perché è roba... Però è Serate a Mosca, cioè che è la traduzione italiana del titolo della canzone, che penso originariamente fosse quello, tra parentesi, scritto sotto, ovvero Midnight in Moscow, che non è proprio Serate a Mosca, però Mezzanotte a Mosca, ma vabbè, licenza poetica, e gli autori di questo brano sono niente po' di meno che i Marcello Sferial. Ci aspetterà la cumbia? Non credo, perché no, mezzanotte a Mosca con la cumbia, no, perlomeno non l'avessero deportati, no. Difficile. No, penso di no. Però sentiamoci questi Marcello sì. Sferial, anche solo per toglierci la curiosità. È tutta per una delle prime volte delle puntate di Basement in cui proprio veramente scopriamo cosa stiamo mettendo. Quello è anche quello il bello di stasera. E allora, qui a Basement Records, Tonight Alive, i Marcello Sferial con Serate a Mosca, Radio Wombat. Tan tan. Una grande piazza, la neve, è il ricordo di una città, non dimentico sere in quel caffè che ho passato vicino a te. Vodka e musica bruciavano nel cuore come il fuoco del nostro amore. Questi erano i Los Marcellos Ferial che cantano in italiano, e io non me l'aspettavo questa. Avevo visto il titolo in italiano, però va bene. Dai, titolo in italiano, canzone in italiano, quello. Sì, ma magari era il gruppo, come andava ai tempi, magari era il gruppo straniero che aveva avuto la grande hit a livello internazionale, e allora usava rifare i grandi successi internazionali poi nelle lingue dei paesi dove c'era un'ulteriore distribuzione. E quindi magari per l'Italia rifacevano il pezzo in italiano, per la Francia lo rifacevano in francese, però questi sono italiani, cioè non è che però il titolo straniero sempre premia. Sì, sì, ma in questo caso era il sottotitolo, eppure sbagliato anche. Quindi, cioè, proprio il massimo dei massimi. Però cioè, a me è piaciuto, cioè, questi Los sì. Marcellos Furial lì avevano un'onda tranquilla. Avevano un suo perché. E poi questo l'ho scelto io, lo confesso con questa. Con questo centrino rosa che da vedere dal nome del gruppo o del barra FIFA e vedere anche il nome della canzone, ho detto questo è disco di sicuro. Proviamo a guardare se è disco. Vai, Reventa, di come si chiama? È Sheila B. Devotion. Dimmi, capito, se non fa disco a dei livelli. Cioè, Sheila B. Devotion. Yeah. E il titolo? You Light My Fire. In che lingua parleranno? Ecco, questo... No, canteranno? Aspetta, però qui ho un suggerimento perché vedo i nomi degli autori e questa stavolta sono stranieri, Quindi se cantano in italiano anche questa, basta, po' via, si chiude baracche e burattini. Avevi detto te che era una trasmissione totalmente italiana? No, quello non è. La maggior parte di stasera, da quello che mi ricordo, ma mi conosci, cioè, ho la memoria di un pesce rosso, quindi dove vuoi andare? Però sentiamocela, dai, questa Sheila B. Devotion, che ora ti tiro fuori pantalone a zampa d'elefante, guarda, ce l'ho già lì, me li metto e ti fo un balletto di quelli. Sicuramente non deluderà. Quello di sicuro no. Guardiamo se è disco. Sheila B. Devotion a Basement Records, Radio Wombat. Ho imparato a staccare la trasmissione. Yoah! Teach me all of your feelings with big teeth. Questa era Sheila B. Devotion, dai, un po' di disco anche oggi qui sulle frequenze di Radio Wombat. Ce l'ho fatta anche stasera a fregare Radio Wombat. Grazie Nero, grazie a te al tuo disco di Sheila B. Devotion. E questo era Light My Fire, che non era Light My Fire né tantomeno quella dei Doors, né tantomeno quella storica che poi hanno rifatto i Take That, che in pochi sanno che l'originale dei che la canzone dei Take That, l'originale era uno stra mega pezzo singolo disco di Dan Hartman, che tra l'altro era tutto prodotto e fatto in Italia quel pezzo disco, però doveva essere tutto sia il nome del cantante che il nome della canzone doveva essere, per fare più trend, dovevano essere in inglese, ma era tutto italiano. Orale. Dan Hartman. E questa invece era la Light My Fire di Sheila B. Devotion, che chissà da dove è stato recuperato questo disco, ma vabbè, è arrivato nella fantastica scatola. Bellissimo, tra l'altro, grazie. Grazie. Ora ci proiettiamo più gli anni Ottanta. Con un altro pezzo della movida fiorentina, perché il nostro caro Renato, se ben sai, ha vissuto tanti anni qua a Firenze. Questo mi mancava. Ha vissuto tanti anni qua a Firenze e a sentire dai vari racconti era proprio un personaggio della movida fiorentina, ovviamente. Bello. Come ti puoi ben immaginare, e come vi potrete ben immaginare anche voi, appunto, come già introdotto dal nostro mitologico Nero, il prossimo pezzo è un pezzo di Renato Zero. Ma quale pezzo? Questo è un pezzo che è stato fatto come singolo, è rimasto come singolo, e non è super conosciuto. Si chiama Galeotto Fulcanotto. E mi raccontavi un po' la storia di questa canzone, di cosa racconta Renato in questa canzone. Sì, racconta che va con la sua fidanzata in mare con il canotto e per sbaglio lei casca giù e lui... Che farà? Per sbaglio. E lui che farà? Si va a sentire cosa farà? Sentiamo come va a finire. Renato Zero con Galeotto fu il canotto qui a Basement Records, Radio Wombat. Tú No, bellissimo sto pezzo di Renato, cioè, infatti dicevi raro perché quasi io non l'avevo mai sentito. Ora non sono un sorcino, per carità, però questo io da giovane pezzo, lo ero, da giovane sono stato un periodo molto, però, molto bello, tra l'altro, questo pezzo, devo dire. Sì, non so se era, non voglio dire una bischerata, era limitato, però non, a giro non ce n'è tanti. Parlando con la gente che ascoltava, è abbastanza sconosciuta come pezzo. Infatti vedo sul centrino del disco proprio Estate Zerolandia, sì, c'è scritto, perché doveva essere proprio un singolo in occasione dell'estate, tra l'altro. Sì, totalmente. E leggo 1981. Ha detto anno 80, proprio alle porte, alle porte. Io infatti ora rimarrei un po' lì. Sì, rimaniamo lì perché tra l'altro questo è un altro pezzone. Però lo annunciamo o lo commentiamo dopo? Sentiti libero. Ma anche questo c'ha un suo perché nel raccontare quello che racconta. Sì, io lo farei ascoltare e poi magari si dice due battutine sopra. E allora sentiamoci questo nuovo 45 giri che ci ha portato Nero a sorpresa. Sì. fantastico questo pezzo. Introducilo, visto che abbiamo lasciato il dubbio. Bene, questo pezzo penso che alla fine all'attualità del giorno di oggi, nella comunicazione perplessa, lo vedrei come, diciamo, lo possiamo mettere come lo spot di Tinder di 40 anni fa. Sì, sì, lo spot di Tinder ante litteram, direi proprio. Capito? Sì, no, bellissimo. Poi c'è appunto quella frase: se non hai nella rubrica una che non sia più di un'amica e non vai più in là, di dove ti porta la mano. Insomma, mi sembra proprio capolavoro. Un grande spot. Ora qui siamo un po' alle porte o sassi oggi, come si dice a Firenze. Allora io metterei tre canzoni. Tre, non lo so, bisognerebbe sentire un attimo. Tre canzoni e... Ma una dietro quell'altra senza di nulla. Sì, nulla. E andiamo a tagliare l'arista. Sì, pompetta. Vai. Allora... Che mettiamo? Mettiamo qui una canzone che... International, che non è international. Che introduce sabati sera. I nostri sabati sera, è abbastanza in comune. Non diciamo niente, anzi, diciamolo subito. Questo è il 45 originale dei The Four Cans, conosciuti anche come Tony Mimma e la sua orchestra, e questa è La Sbornia. Basement Records, Radio Wombat. Quando bevi papera, fallo slalom tra il lampione, a schivarli, tutti quanti son buoni, lei invece li sbatti giù. Su cugina, bevi solo benzina, e puoi parte come un razzo. Ora Monza sta tirando da un pezzo, chissà quando si fermerà. Cicco, cicco, cicco, puntilo, cicco, nulla scritto, poi vedrai che bella pesca, la medicina, l'amore rovina, vai tranquillo e questa qua. Maria Rossa ha la spronza morossa, ogni fiasco di danza a to, se cambia vino la bella scordato, e mai nessuna la sposerà. Su cognato che beveva moscato, sei spronzato se mi amato, le han trovati seduti nel parco a progettare Revolution. Questo giustamente, questo 45 è dedicato a tutti noi, proprio questa La Sbornia è proprio, era una dedica universale, diciamo. Alle nostre serate. E adesso? Allora adesso ora portiamo, non so quanti nostalgici avranno vissuto questa epoca, io sì. Abbiamo il cartone animato che guardava, che ci facevano guardare a noi, l'unica cosa si poteva vedere, l'unico cartone animato si vedeva in televisione. Si chiamava Super Gulp. Super Gulp, c'era TNT, c'era i quattro di Alan Ford. Alan Ford, c'erano i quattro supereroi e noi si guardava quello. E qui si mette una delle due sigle che si chiama Giumbolo. Questa è la sigla di Giumbolo. Andiamo subito a ruota, ovviamente Basement Records, Radio Wombat. C'è sempre gongolo e ricongolo, quando mi muovo io pallonzolo, pallonzolo, poi gongolo e ricongolo, la notte e il dì. Mi chiamo Giumbolo, Giumbolo, Giumbolo, io sempre rido quando dondolo e ridondolo, ma se girondolo io giondolo e ricciondolo, poi gongolo e ricongolo, la notte e il dì. Quando gongolo lo, lo divento il simbolo lo, lo, di tutto quello lo, lo, lo, che gioia do. E quando gongolo lo, lo divento il simbolo lo, lo, di tutto quello lo, lo, lo, che gioia do. Mi chiamo Giumbolo, Giumbolo, Giumbolo, io sono felice sempre gongolo e rigongolo. Quando mi muovo io pallonzolo, pallonzolo, poi gongolo e rigongolo, la notte e il dì. Parabonzi pum, parabonzi pum, parabonzi piro, parabonzi pum, parabonzi pum, parabonzi nero. E pera e mela, mela e pera e mela, mela, pera e mela, mela, pelero, mela, mela, pelero. Chiamo Giumbolo, Giumbolo, Giumbolo, io sono felice sempre gongolo e rigongolo. Quando mi muovo io pallonzolo, pallonzolo, poi gongolo e rigongolo, la notte e il dì. Mi chiamo Giumbolo, Giumbolo, Giumbolo, io sempre rido quando dondolo e ridondolo, ma se girondolo io giondolo e rigiondolo, poi gongolo e rigongolo, la notte e il dì. Quando gongolo lo, lo divento il simbolo lo, lo, di tutto quello lo, lo, lo, che gioia do. E quando gongolo lo, lo divento il simbolo lo, lo, di tutto quello lo, lo, lo, che gioia do. Mi chiamo Giumbolo, Giumbolo, Giumbolo, io sono felice sempre gongolo e rigongolo. Quando mi muovo io pallonzolo, pallonzolo, poi gongolo e rigongolo, ma non è il dì. E questo era Giumbolo, sigla dei tempi, del cartone animato, non era più che un cartone animato, era una trasmissione che si chiamava Super Gulp e racchiudeva vari cartoni animati, della durata di 2 ore la trasmissione. Dopo il carosello ci misero Giumbolo, ci misero Super Gulp. Ora andiamo, siamo arrivati a fine, passiamo un'altra, bisogna chiudere con Firenze, no? Avevamo detto che, cioè, voi non lo sapevate, però c'era degli accordi pregressi fra di noi che si doveva chiudere con un'altra canzone di Odoardo, il mitico Odoardo Spadaro. E in questo caso, tra l'altro, cioè, ora chiosa perché ho il vinile in mano, ma vedo che in questo disco di Odoardo Spadaro Il gruppo di accompagnamento di Edoardo Spadaro è Piero Umiliani e il suo complesso, e Piero Umiliani è un grandissimo delle colonne sonore italiane, veramente uno dei più grandi insieme a Morricone, Rota e compagnia cantante. E vedo che, appunto, con stupore, che Edoardo Spadaro era accompagnato dal complesso niente poco di meno che di Piero Umiliani. Cioè, magari non te ne fregherà un cazzo, no, non lo metto in dubbio, però dà ancora più valore. Questa canzone si chiama Donne c'è l'ortolano. Io vi saluto, che siamo arrivati alla fine, grazie. E... potevamo che chiudere con questa, già sì, siamo... si fa partire subito? Vai con Edoardo, buona vai, serata a tutti, qui da Appena Poco e da Nero e alla prossima punta, alla prossima trasmissione qui sulle frequenze di Radio Wombat. Buon sabato sera a tutti. Ciao, ciao, grazie, ciao. Buona serata. Buon sabato sera, fate i bravi. E tante cose belle. Vento per le strade la mattina, sentieri venditori che cantano dai di fuori, donne c'è gortolano blu come la seta fagioli, i lodotti e le granate belle chi le voli. A routine, sempre calda, sempre a bollore, c'ho la trippa io, ve le levo, e gli hai canto di rivenditore, e gli hai canto che la mattina metti buon umore. La sora Gilda salsa, dice mi sento male, credi, non vuoi il mercato, non me la sento, te lo giuro mio Pasquale. Pasquale già s'arrabbia, per strada un c'è botteghe, però a cessar la rabbia ed a far passare le bighe beghe. Senti che dai il di fuori, passa i rivenditori, donne c'è d'ortolano, e come la seta fagioli, i lodotti e le granate belle chi le vuole. A routine, sempre calda, sempre a bollore, c'ho la trippa io, ve le levo, e gli hai canto di rivenditore, gli hai canto che la mattina metti buon umore. E gli hai canto di rivenditore, e gli hai canto che la mattina metti buon umore.